nice. Remember that time I tried to do something nice? You just whine. I bought you champagne, but now you unwind. It's a real pain, just make up your mind. Come on, don't mind, mind. You're wasting my time. You ain't got no right. You wait all the pie. Cause I know five guys who's waiting in lines. I bet you that slide and say your bye-bye. Diretta su Instagram. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush like you no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, try to be me again. Flush, ditch my boot, meet my friends. Flush, sorry love, what was that word? If you're too nice, too nice, too nice. You can't afford to be small, just think you've been smoking way too much torture. If you're too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much, so before you get hit, or is that suggest you just flush? Benvenuti al 283esimo coxo spaziale. Lo dici tu? Vuoi ridirlo tu? No, così. Ciao Stefano. Ciao Feda. Ma sei qui davvero? È un sacco che non siamo... che non siamo insieme in... Ti vedo, ti vedo, potrei anche toccarti se non fossi dalla parte sbagliata del vetro. Cosa ci faccio perché io sbagliata? Qui? Perché sbagliata? Perché è l'altra quella che dove mi sento... Ah, sì? Senti come cigolo, senti come cigolo. Cos'è questa, questo pregiudizio? Perché non posso essere in regia io stasera? No, no! Vedi? Ecco perché. Arte contemporanea. Torna Stefano Pasquini e torna l'arte contemporanea. Esattamente. E quindi... il 283esimo coxo sarà tutto dedicato alla ricerca artistica contemporanea? Sì. Magari attraverso l'esperienza di due mega galattiche ospitesse che abbiamo qui alla mia destra. Come sei teatrale stasera. E che si chiamano Gwendalina Piselli e Barbara Baroncini? Sì. Ciao ragazze, benvenute a Gwendalina e Barbara. Ciao, grazie. Grazie per essere salite su questo coxo spaziale e attraverso loro riprenderemo i ponti con l'arte contemporanea, che l'abbiamo lasciata un pochino lì orfana e sola dopo le tue interpretazioni di quest'estate, vero Stefano? Ah sì? Sì, perché poi io ho fatto tutto performance e teatro, e che dobbiamo fare? Ah, però no, aspetti, ti avevo dato un pezzetto, ascolta questo. Ascoltiamo ragazze. Certo. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Più chiaro di così? Pronto? Pronto? Pronto? Dove chi sei parla? Finita? Chi parla? Dove sei finita, Fede? Ho fatto un cambio al volo con le cuffie, okay. Perché non sentivo un coxo, come si suol dire qui da noi. Ma se vuoi ti alzo le cuffie. Vuoi che ti alzi le cuffie? Ma non vorrei che dopo poi accechi, no? Come si dice quando accechi le orecchie di qualcuno? Assordi? Assordi, grazie. Vedi, lei che ha studiato. Ma l'abbiamo detto insieme, l'ho detto anch'io. Anch'io ho studiato, C'è Barbara che è il nostro giudice. Ok. No, passiamo a Gwendalina subito perché insomma è lei l'ospitessa, la star della serata, che sta facendo, sì. Sta facendo una cosa chiamata diretta Instagram. La diretta su Instagram. Quindi, caro Oscar Moroni, che ci ascolti dalle terre venete, sì. Sappi che se tu ti colleghi ad Instagram potrai vedere Gwendalina e Barbara che parlano di... Non lo so, il tuo profilo è pubblico? No, ma il profilo è di Nelumbo. Perché passa... la diretta la stiamo facendo da Nelumbo, un altro spazio di cui parleremo oggi a questa puntata del coxo. Se ce la facciamo. Perché non dobbiamo farcela? Perché non lo so, stiamo... Ma no, ce la facciamo, ce la facciamo. Ah, ok. Donna Scaletta. Donna Scaletta, perfetto. Tieni d'occhio anche gli orologi perché... Sì, perché poi abbiamo un grandissimo appuntamento alle 7:28 con le pubblicità della mezza. Esatto. Che quello non lo dobbiamo perdere. No, infatti, io sono capacissimo di perderlo. No. Ce la faremo Pasqua come ai vecchi tempi. Ok, allora mi concentro un attimo sulle nostre ospitesse. Dai, concentrati. Perché è vero che noi siamo qui, abbiamo invitato a parlare Gwendalina Piselli della sua esperienza di giornalista e di organizzatrice di eventi. Sì. E lei ha pensato bene per entrare nel vivo, perché a noi del Coxo piace usare i nostri ospiti anche come esperienza, come modello, come esempio di come si può fare arte nel contemporaneo, ha pensato bene di sgavagnare la patata alla Barbara Baroncini, che è un'artista, che è l'artista contemporanea sulla quale, che insomma, la cui personale è tutto verde, ha luogo da giovedì scorso fino al 30 novembre a Nelumbo, che in è questo... via Rienti 10. Bravissimo Pasc, sono preparato. Ma che cos'è Nelumbo? È un artist run space. Esattamente. Allora, come, vabbè, adesso è stata una presentazione un pochino così per far sentire le nostre le voci delle nostre ospiti. E di solito a una certa, prima di riprendere le redini, mettiamo un piccolo branino, giusto per... Certo. Posso farlo quando mi pare a me o lo devo fare quando ti pare a te? Sono troppo abituata a fare la regia, che dite? Sono a caso se la donna scaletta. Esatto. La donna scaletta che poi però si dimentica di mettere la musica e fa delle trasmissioni con una canzone. No, veramente sono sempre 2/3. Poi se mi suonano dal vivo e fanno delle cose che sembrano canzoni ma non lo sono. Ma torniamo a Gwendalina. Cosa Gwendalina, io ti ho invitato perché fondamentalmente volevo capire che cos'è che fai nella vita, perché fai troppe cose. Ti vedo spessissimo sui social network fare un sacco di roba e dico, ma questa cosa fa? Ho cercato di capirlo anch'io e credo di esserci riuscita pochi giorni fa, quando qualcuno mi ha chiesto di cosa ti occupi e io sono arrivata a dire ufficio stampa e comunicazione. Ok. Diciamo che questo è la... Hai messo una pietra, sì. Una pietra... Sì, giusto per capire cosa scrivere su un eventuale biglietto da visita che un giorno producerò in qualche modo. E quindi sì, nella vita mi occupo principalmente di quello, che è una cosa che ho iniziato a fare non da tantissimo in realtà, perché... L'esperienza è freschissima e lo faccio per eventi culturali e per Nelumbo, quindi, che si ricollega alla mia passione, che sono stati anche gli studi per l'arte contemporanea, ed è un percorso che ho seguito in parallelo a quello di organizzazione eventi, tra cui Fruit Exhibition, che è uno dei miei più grandi amori insieme a Nelumbo, perché è uno di quelli che sento in modo più personale, più mio, diciamo. E ho fatto queste cose e nel mezzo faccio la giornalista scrivendo per ATP Diary, che è un blog di arte contemporanea internazionale. E infatti stavo andando a ricercare il post di Francesca Zoe Paterniani che ti ha definita, no, adesso no, lo troverò, però nel frattempo apro una piccola parentesi perché mi ha scritto Oscar, il nostro caro Oscar Moroni, che ha detto: ho cercato Nelumbo, mi è uscito un porno. No, diciamo che ha sbagliato ricerca. Facciamo lo spelling? Forse bisogna fare lo spelling. Certo, però. Allora, su Instagram ci trovano come n.o.project con la J, e invece su Facebook con Nelumbo Open Project. Hai capito Moroni? Capito Moroni? Molto bene. Io continuo a cercare, ma forse te lo ricordi tu come ti aveva definito. La più up and coming, no, la più importante up and coming, non mi ricordo più. Com'era? Com'era? Non te lo ricordi neanche, no. Tu. Aia. Mi aveva emozionato talmente tanto che l'ho dimenticato. Comunque lo troveremo quando metto su una canzone, perché Fedra mi stava... No, no, che lo mettiamo su www.coxospaziale.blogspot.com quando lo trovi. Quando lo trovo, così come metteremo la trasmissione di lunedì scorso. Quando, il 282esimo Coxo. Quando la troviamo, vi faccio sentire una canzone romanticissima di Billy Bragg. Wondering what was on you. Wednesday when you hung up, it was as much as I could do to stop from wishing Thursday would pass so quickly too. You're out there making history in the Lenin shipyards to die. Dico, Fedra, non mi segui su accademia.edu? Che dove lo trovo? Su accademia.edu, che è un sito dove è tipo un social degli accademici, studenti e professori. Ma dai, mandami un link allora. Mandami un link che comincio a seguirti. Esatto. Tra l'altro mi servirebbero dei professori anche accademici e universitari. Lì ne trovi a man bassa. Ottimo. Passa il link. E dunque non hai letto il mio articolo dove tesso le lodi di Instagram contro tutti gli altri social però network. Potremmo farlo un bel coxo, così magari imparo e poi me lo apro anch'io e facciamo questo passaggio epocale. Sì, possiamo farlo. Perché il coxo è utile. Sì, ogni tanto. Qualche rara puntata, qualche tipo rara quella puntata. Delle chat di 2 anni fa. Io sto tentando di convincere Pietro Iusti a venire al coxo, che lui di lunedì difficilmente è qua perché il bambo è chiuso. Però va bene, magari quando c'è un eventone, però allora va all'eventone. C'è un eventino giovedì, ma dopo lo mettiamo. Dopo te lo devi trattenere per una settimana. Lo mettiamo nelle menzioni. E scrive il nostro Oscar, appunto: non ho Instagram, non vedo una minchia. E io rispondo: come fai a non avere Instagram? Hai letto mai Oscar il suo Moroni? Articolo su Instagram? No, ma Guendalina, passo la palla a te. Cioè, Instagram sarà il social più interessante che c'è al momento, o sbaglio? No, sì, hai ragione. Direi che perché? Facebook ormai sta perdendo. Qual è il potere di Instagram? È il potere dell'immagine. Che Facebook ama, ma relativamente poco. Ma sta cosa che le foto devono essere quadrate, per esempio. Ma non è più così. Non più. Non è più così, tipo da 6 anni. Però. Va bene. Comunque, io a proposito di questo tema, avrei una domanda da rivolgere a Guendalina. Molto bene. Ok. Era una finta, non è su Instagram la domanda, era giusto per ricavarmi. No, ti volevo chiedere, tornando alla questione dei grandi amori, sì. Hai citato anche Nelumbo, che io, ricalcando quello che mi hai detto prima della trasmissione, ho presentato come Artist Run Space. Esattamente. Vogliamo parlarne? Come mai un primo amore? Di cosa si tratta per chi non avesse mai conosciuto? Allora, partirei da dire cos'è Nelumbo. Sì, mi piace. Ok, allora, Nelumbo, come dicevi tu, è un Artist Run Space gestito da un'associazione culturale che si chiama Nelumbo. E per questo prima, quando parlavamo, ti introducevo un po', non può essere definita una galleria, perché non ha scopo di lucro e di vendita. E nasce come Artist Run Space nel maggio 2018. E io faccio parte del team da agosto, quindi è una cosa freschissima. New entry. Sì, però l'ho frequentato dalla sua nascita e quindi sono passata da pubblico a parte integrante del progetto. E a sua volta questo spazio nasce da una galleria d'arte orientale che si trova appunto in via Arienti, si chiamava Nelumbo, che era nata nel 2011. Quindi diciamo stesso luogo, cambio di anima in qualche identità modo. Identità diverse. Stesso, sì. Stesso nome, stessa spiaggia, stesso mare. Però è strano non è che non abbiano cambiato il nome, cioè che non abbiate. Non in lo realtà so, è interessante un po' questa eredità, lo spazio. Poi Nelumbo significa qualcosa. E allora Nelumbo è una pianta orientale, se non vado errando. mi dovete perdonare, perché effettivamente era abbastanza orientale anche la mostra di Bado. Io non ero mai, ammetto di non essere mai stato prima. Però, di giovedì al, se è il nome di una pianta spazio, è tutto verde, ci sta, esserci. Ci sta. No, perché appunto io giustamente, Stefano, volevo prendere questo ingresso per cominciare anche a tartassare la nostra altra ospite, l'artista Barbara Baroncini. E quindi questo progetto Spernelumbo è tutto verde, la tua personale che ha inaugurato giovedì 17 che andrà avanti fino al 30 novembre, come nasce? È stata una proposta reciproca? Nasce da più incontri, diciamo. Prima è stato con le ragazze di Nelumbo che mi hanno invitato a mi hanno dato l'opportunità di creare un progetto ad hoc per lo spazio, e ho colto l'invito e ho iniziato a ragionare su quale poteva essere la tematica o il lavoro da presentare. E Nelumbo è un posto molto speciale, non solo come spazio, ma anche per il fatto che ha al suo interno un giardino privato, e quindi questo aspetto era fondamentale per me, ai miei occhi. E diciamo che per questa mostra ho voluto quindi iniziare a ragionare sul concetto di verde, non verde come colore, ma verde anche come natura, e ho colto l'occasione di aprire un dialogo con il curatore Michele Gentili e anche con ovviamente le ragazze di Nelumbo, e immaginare come poteva evolvere questa idea sul verde e sulla natura all'interno dello spazio. Quindi queste sono state un po' le premesse del lavoro che poi è nato da agosto. Mm-hmm. Quindi è da agosto che da quest'estate che sono entrata lì dentro e ho iniziato a fare una sperimentazione, diciamo, anche tecnica sul lavoro, sulla mostra e su tutto quanto. Allora, vogliamo fare un piccolo passo indietro per poi arrivare alle tecniche che hai applicato per È tutto verde, applicate a Nelumbo. E come nasce la tua ricerca artistica? Qual è, se c'è un indirizzo della tua poetica? Allora, io ho una ricerca molto, molto vasta. Diciamo, il mio interesse principale negli ultimi anni è stato quello riguardante le relazioni personali, in particolar modo le relazioni amorose. Quindi mi sono concentrata molto sull'interrogarmi sul significato dell'amore, del sentimento che nasce e vive tra coppie di innamorati. Recentemente entrare a Nelumbo mi ha fatto... È stato un percorso molto, molto strano, perché dal verde sono ritornata poi di rimando alle relazioni, al giardino, e quindi nuovamente all'amore, immaginando il giardino come un luogo dedicato agli amanti, dove loro potessero stare. Mi piace, mi piace. Sì, questa è un po' la cornice del mio lavoro. Poi è mutevole, insomma, è una ricerca veramente giovane in divenire. A questo punto sono curiosa, che tipo di tecniche, che codici, in che modo si declina il tuo operato nello spazio? Allora, una delle, diciamo, delle motivazioni che mi hanno spinto a intraprendere questo lavoro era voler sperimentare la tecnica della pittura a fresco, perché ero rimasta affascinata da determinati affreschi visti insieme a Michele Gentili al Museo Massimo a Roma, in particolar modo quelli di Villa di Livia. Sono praticamente affreschi originari di un giardino di epoca romana, e lì ho capito che questo giardino aveva una quantità di stupore nel guardarli che mi hanno affascinato tantissimo. E quindi ho cercato di sperimentare, mettermi in gioco, creando anch'io, insomma, provare anche io a imitare e a cimentarmi con quel tipo di tecnica. Ci sono andata vicino perché ho lavorato su intonaco sempre, però a secco, quindi con pigmento, e ho creato una visione di un prato, di un giardino mio personale. E come so che avevi fatto una preview con il work in progress. Esatto. Come è andata questa cosa? Come mai avete deciso di fare una preapertura della mostra, tipo un mese prima della mostra, e poi mi chiedo appunto com'è stata come esperienza per un artista. Allora, la scelta era nata anche dall'integrare l'attività di Gwendalina per Fruit, quindi abbiamo scelto di... Gwendalina ha selezionato alcune riviste e cataloghi sul tema del verde, quindi in questa preapertura c'era uno spazio dedicato, una sorta di bookshop curato da Fruit e Gwendalina, e in più si potevano vedere alcuni dei pezzi di sperimentazione, diciamo, più tecnica che io avevo realizzato durante, chiamiamola così, questa residenza nel Lungo, e poi si riusciva un po' a sbirciare nel Lungo, nel work in progress, cioè io ho vissuto nel Lungo proprio come quasi uno studio, quindi avevo tutti i miei materiali, il lavoro in progressione, e le persone potevano vedere i tavoli, i pannelli dove io dipingevo. Quindi è stata veramente un'esperienza bella, insomma, creare un po', posso dire, un po' di aspettativa, un po' di curiosità su questa esperienza che aveva anche un che di pratico molto forte. E dunque sono tornati tutti quelli che erano venuti alla preview. Sì, volevamo vedere se che fine avevano fatto. Come finiva. Esatto. Bene, io vi devo interrompere tutti quanti perché... Sì, ma ci interrompi nel momento preciso, perché questo gancio che ci hai lanciato con appunto il gancio con Fruit ci anticipa quella che sarà la seconda parte della trasmissione, ovvero gli amori di Gwendalina Piselli. gli amori di Gwendalina Piselli. Adesso, intanto, prima di tutto, nutriamoci un attimo. Le grandiose pubblicità delle 7:30. Adesso ti abbasso e dico che prima ci dobbiamo nutrire un secondo. Come preparare le uova al tegamino? Preparare l'uovo al tegamino: versare l'olio in un pentolino adatto per cotture in forno e ungete tutta la superficie con un pennello. Rompete poi l'uovo in una ciotolina. Controllate che il tuorlo sia integro e trasferito. Come preparare le uova al tegamino? Per preparare l'uovo al tegamino, versate l'olio in un pentolino adatto per cottura in forno e ungete tutta la superficie con un pennello. Rompete poi l'uovo in una ciotolina, controllate che il tuorlo sia integro e trasferitelo all'interno del padellino. Cuocete in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 6 minuti. Una volta cotto, sfornate e condite con sale e pepe nero a piacere e servite il vostro uovo al tegamino ancora caldo con dei crostini. Sei interessato alle professioni del futuro? Se hai tra i 18 e 32 anni e vivi in Piemonte, Toscana, Sicilia o Emilia-Romagna, partecipa alla selezione di 60 giovani per percorsi formativi gratuiti sull'economia circolare. Le 12 migliori idee che ne nasceranno saranno premiate con 3.000 euro per il loro sviluppo. Non perdere tempo, il bando scade il 31 ottobre. Informati su www.lvia.it. Metti in circolo il cambiamento, un bando per formarsi ed attivarsi. Suoni d'ambiente, quando la musica fa la differenza. Sei un musicista, un artista e le vuoi suonare al cambiamento climatico? Partecipa al contest musicale di Radio Città Fujiko Suoni d'ambiente con un brano sul tema della salvaguardia del pianeta. Il tuo pezzo sarà trasmesso in radio, verrà valutato da una giuria composta da grandi nomi del panorama musicale italiano e potrai aggiudicarti uno dei premi in palio. Per informazioni, regolamento e scadenze del contest vai sul sito www.radiocittafujiko.it. Amo, abbiamo provato al thailandese? Sì. E al boliviano? Ma che boliviano? Io vorrei mangiare romano. Romano! Vorrei una pinza, una carbonara, una cacio e pepe come si deve. E poi porchetta da riccia, la coda vaccinara. E allora andiamo alla romana, in centro a medicina. Loro non fanno cucina romana. So proprio romani. Guarda su allaromana.it oppure cerca la romana su Facebook. Via Saffi 13 a medicina, alla romana. C'è stato spazio pure per i pupi. E namo? Quanto sei bella Roma! Quando è sera. Il 25 ottobre è sciopero generale, insieme al sindacalismo di base, per la piena e buona occupazione, per aumenti di salari e pensioni e la riduzione dell'orario di lavoro, per la democrazia sindacale e la cancellazione dei decreti sicurezza. Lottiamo in difesa dello Stato sociale e contro le disuguaglianze. In sciopero contro la guerra, la produzione e il commercio di armi. Il 25 ottobre scioperiamo e manifestiamo a Milano. Il sindacato generale di base organizza la partenza. Per info 051 359801. Emilia Romagna @sindacatosgb.it. Al Box Club di Nonantola riprende una ricca stagione di concerti. Venerdì 25 ottobre Marlene Kunz, sabato 26 ottobre Lazza, venerdì 29 novembre Incognito, sabato 14 dicembre Wrong on You. Vivi la musica al Box Club. Biglietti disponibili tramite il circuito Ticket One e Boxer Ticket. Info Studios 059 45 16 46, studios@studiosonline.it. Ed eccoci tornati in diretta con il 238esimo, no, 83esimo. Vabbè, l'ho fatta, la gaff della puntata. La gaff. Questa puntata è interamente dedicata a Guendalina Piselli, che con le sue attività ci sta dando un esempio di come si possa fare comunicazione e produzione eventi in ambito culturale. Sin qui abbiamo svelato uno dei suoi primi amori, Nelumbo. Conosco il suo primo amore. Fruit? Sì. Vabbè, ma adesso ci stiamo arrivando. Arrivaci. No, perché attraverso Nelumbo, Nelumbo ci è stata presentata attraverso anche l'opera di Barbara Baroncini, che ci ha appena raccontato di come è nata e poi sviluppata la sua mostra È tutto verde, che sarà visibile negli spazi di Nelumbo fino al 30 novembre, tutti i venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30. Bravissimo. E fra l'altro c'è stata appunto un'apertura in anteprima, come tu che sembravi quasi un giornalista di ricerca. Di grid, ma io sono un giornalista di ricerca. No, ma sai, di quelli che fanno le inchieste, che vanno a scoprire. Ha avuto anche un'anteprima legata a Fruit, che giustamente è il primo grande amore comunicazionale. No. Organizzativo di Guendalina Piselli. Vogliamo un po' parlarne? Sì, certo. L'amore per Fruit nasce in realtà da un'esperienza, diciamo, basilare nella vita di uno studente, che è il tirocinio curricolare. L'ho fatto il secondo anno di accademia e volevo lavorare nell'organizzazione eventi, perché era quello che volevo fare nella vita, anche se ero ancora confusa tra organizzazione eventi e ufficio stampa. E ho fatto tirocinio da loro e poi ho continuato diventando responsabile del bookshop. E significa che per Fruit è una gran bella responsabilità, visto di cosa tratta. Esatto. E sì, sono diventata responsabile del bookshop, significa che seleziono le pubblicazioni che passano attraverso il nostro bookshop, quindi non partecipano al market di Fruit. Al market di Fruit partecipano editori indipendenti che rispondono a un open call che noi lanciamo e lanceremo molto presto. Ta-da! Siamo in ritardo rispetto agli altri anni, perché quest'anno Fruit non si terrà durante il weekend di Arte Fiera, abbiamo deciso di spostarlo e per darci più spazio e più possibilità di costruire un evento che non sia chiuso appunto in quelle giornate caoticissime. Sì, infatti, tre giornate. Io sono d'accordissimo su questo. Anche io. Bene. Ma fra l'altro tu c'eri a Fruit quest'anno? Cosa facciamo? Conflitto di interessi live? No, perché di solito... Certo, io partecipo sempre, anzi non io, ma Obsolete Shit partecipa sempre. E hai avuto modo di... cioè vi siete conosciuti lì con Gwendalina? No, in realtà ci siamo conosciuti in altri ambiti, però che avevano a che fare con Fruit. No, nell'ufficio di Fruit, infatti. Soltanto che lei mi stava seduta, era una riunione e lei mi stava seduta dietro, per cui... E ti studiava. No, e rispondevo ai mail di fatture. Esatto, per cui la seconda volta che ci siamo incontrati io non l'ho riconosciuta per niente, perché già non mi ricordo niente e in più, non avendocela davanti. E siete rincontrati di nuovo a Fruit? No, ci siamo incontrati quando lei lavorava al Mambo e io stavo preparando... stavamo preparando il forum dell'arte contemporanea, insomma, qua... Si mischia tutto perché siamo sempre nel mondo dell'arte contemporanea. Va bene, qui a Bologna, fra l'altro. Certo. Ma le menzioni vuoi farle adesso o dopo? Non lo so. Perché allora io continuo. Provo a sentire amori. Dal mio capo. Scusi, capo, le menzioni secondo te le dovremmo fare adesso o dopo? Pasquini, io credo che lei potrebbe anche tenerlo in coda alla trasmissione. No, in coda! L'angolo della menzione. Se il capo dice dopo, lo faccio subito. Il problema è riuscire a gestire gli stacchi, che sono così. Hai fatto un test? Ho fatto un test dello stacco. Le leggo tutte e due io, perché voi non le sapete. No. La prima menzione è che questo giovedì, a proposito del Mambo, alle 18.30 c'è una sorta di performance o una cosa del genere chiamata Cesare Pietro Iusti raccontare vestiti sexy, laboratorio aperto, anzi non è una performance ma è un laboratorio aperto, in occasione della retrospettiva di Cesare Pietro Iusti chiamata Un certo numero di cose, si invita il pubblico ad una sessione di scrittura creativa partendo dagli elaborati dei partecipanti al workshop in corso nell'ambito della mostra dedicata all'opera 100 Pieces of Clothing del 1992, raccontare vestiti sexy è un laboratorio in cui i visitatori potranno intervenire questa musica di sottofondo mi ha un attimo lasciato così. Potrà intervenire con suggerimenti e nuove storie, contribuendo così alla stesura del corpus narrativo dedicato alle 65 fotografie esposte in mostra. L'ingresso gratuito nella fascia oraria dell'evento, che sarà dalle 18.30 alle 20. Non mi ricordo, il giovedì mi sa che chiude alle 22 o qualcosa, sì, del genere. Confermo, Dex. Conferma, brava. E questo è il Mambo, www.mambobologna.org. Poi ho una domanda per... Questa invece la seconda è... Che gliela faccio dopo a Gwendalina la domanda. Sì, fagliela dopo magari. La seconda invece è una non inaugurazione, perché non inaugura, oppure se inaugura i comuni mortali non sanno che inaugura, ma dal 24, sempre da giovedì, comincia... Fotoindustria e la rassegna di fotografia annuale organizzata dal MAST, che vede 11 mostre in altrettanti spazi museali in giro per la città, tra cui anche il Mambo, fra l'altro. Tutte le mostre sono gratuite, registrandosi online o ritirando il badge in ciascuna delle sedi. Questo è dal 24 ottobre al 24 novembre e tutte le info le trovate su www.fotoindustria.it. Gwendalina, io adesso ho una domanda per te in veste di ufficio stampa. Ok. E siccome so che Stefano ti ha in grande stima, spero che quello che tu risponderai possa essere utile per le puntate successive di Coxo Spaziale. Per l'ufficio stampa di Coxo Spaziale, che come tu, come ma sappiamo, non esiste. Ritieni che le menzioni debbano essere sistematizzate al fine della lettura in radio? Quindi un taglia qui, un taglia lì, e poi chi vuole se le approfondisce andando a vedere il link da www.coxospaziale.blogspot.com. La risposta è? La risposta è che in effetti c'era un po' di disparità tra la lunghezza della prima e della seconda. Perdonami, Stefano. Perché non ti è capitata una di quelle menzioni con le collettive che comincia a fare un elenco di nomi che non finisce più. Alle volte quando non ho tempo faccio copia e incolla, quando ho tempo, come oggi, invece le preparo e oggi le ho scritte entrambe come si deve. Sì, esatto. Okay. Vabbè, scritta come si fa negli uffici stampa, un po' copia e incolla, un po' si scrive. Ok, dai, almeno un plauso all'intento, però si può ottimizzare. Si può ottimizzare, ma si può sempre ottimizzare. Vero, siamo d'accordo, anche coxo spaziale si può ottimizzare. Del resto si fa quel che si può. Invece torniamo a parlare di amore. Torniamo a parlare di amore, infatti. O vuoi mettere un brano? Che no, voglio parlare di amore. Ok, parliamo di amore. Sì. Il primo amore era Fruit. Sì. Ma ce ne sono altri di amori. Ce ne sono altri ce che sono tanti. Anche in una conseguenzialità molto organica nel corso dell'anno, dico sì. Bene? Sì. Vogliamo parlare di... Gender Bender, certo, che è il prossimo nella lista dei tuoi amori. Direi di sì. Sono tutti amori, perché quando accetto di lavorare non lavoro per qualcuno, per qualcosa, ma con qualcuno. E quindi mi piace seguire progetti che conosco, che ho seguito, che mi danno qualcosa a livello culturale, personalmente, prima di tutto che professionalmente. Questo ci tengo sempre a dirlo. Per Gender Bender ho fatto una cosa nuova che non avevo mai fatto, cioè scrivere dei testi per i programmi. Quindi mi sono occupata della redazione testi cartacei web ed è stata una bella mole di lavoro. È stata una bella, bellissima mole di lavoro. Copia e incolla e rifina, giusto? Sì e no, perché ci sono alcune cose che sono inedite, quindi in realtà ci sono recensioni, ci sono informazioni tecniche dalle quali bisogna prendere quel che si può, e soprattutto farlo togliendo quella parte che invece è più personale di critica giornalista d'arte, nella quale sì, in realtà molto... di solito metto un'opinione personale comunque su quello che vedo. È molto interessante perché nasce dall'amore, ma per essere tale deve svuotarsi di sé. Esattamente. Sì. Cosa ho detto? Cosa hai detto? Una cosa bellissima. Posso neanche alzare senza che ve ne accorgete, perché ho messo le casse dalla vostra parte e appena vi alzo si sente. Ma com'è questa cosa che... Ma si sente? Si sente. Io non mi sento. Ma tu sei un po' sorda, io te lo dico sempre, ma... È vero. No, ma com'è questa cosa che... Vabbè, ti abbasso un po' la musica. Spezzi i brani. Così. Una volta non li spezzavi mai i brani, invece qua abbassi. Ma no, il volume, forse quella eri tu. No, non è vero. No, io ho sempre spezzato. Un po' di lotta su chi fa meglio la regia. No, vabbè. No, comunque lo sappiamo, avrai, chi fa meglio la regia tra me e te. Non mi avrai ed con è DJ la sfida. Paglione, lo sai. Non mi avrai in questa sfida, perché in realtà noi parliamo di amore. Come dice la tua vocina della musica canzoncina. Cos'è questa musica canzone? Questa è Stella Donnelly, è una cantante, la conosci? No. No, perché infatti non la conosce nessuno. È una cantante australiana, l'ho trovata per caso e mi sono innamorato, come so fare io. Brava, eh? No, questo disco è bellissimo, te lo passo. A chi è che lo passo? Scusate? Alla Gwendalina, naturalmente. Te lo passo a tutte e tre. Taking from the 99. Poi a me le donne che usano le parolacce mi piacciono moltissimo. Soprattutto se hanno la vocina. Sì, vabbè, quello aiuta. No, ma e poi se possibilmente hanno i polpacci belli robusti. Vabbè, adesso non continuiamo. Adesso non entriamo nel mio intimo, no, perché stiamo parlando dell'amore, degli parla amori di Gwendalina Piselli. Si parla non d'amore. Ma in realtà gli amori di Gwendalina Piselli abbiamo visto che sono degli amori che sono corali, perché sono fortemente sentiti dalla comunità bolognese e elargiscono emozioni, cultura attiva e ricerca. Dico bene? Sì. Da anni, anni e anni. E adesso insieme a te ancora e ancora e ancora. E quindi eravamo arrivati, allora abbiamo fatto stiamo facendo questo excursus dei tuoi amori. Abbiamo detto Fruit, abbiamo detto Nelumbo, abbiamo detto Gender Bender, adesso potremmo dire, giusto per stare nei prossimi tempi, Archivio Aperto. Sì. Parliamone. Archivio Aperto è il festival annuale di Home Movies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, che ha sede in via Sant'Isaia, all'Istituto Parri, l'Istituto Museo per la Resistenza. E anche questa è una collaborazione nuova che doveva partire l'anno scorso, ma per il mio tempo al Mambo non è riuscita a partire e l'abbiamo recuperata quest'anno. Per loro mi occupo principalmente di comunicazione social, quindi chi lo segue, tutto quello che sta accadendo su Facebook e Instagram è opera mia, e durante il festival farò un po' da jolly come assistente di produzione. Barbara, che è imminente, giusto? Inizia venerdì. Venerdì. Domani sera da Modo alle 19 ci sarà la presentazione del programma con qualche anticipazione. Ok, prima vedevo che quando dicevi che è tutta opera tua Facebook, vedevo che Barbara applaudiva. Certamente, benissimo. E a questo punto io rilancerei, ma facciamola veramente questa puntata sui social e invitiamo Gwendalina a illuminarci un pochino. Ah certo, facciamo una doppia diretta Instagram. Io ho un sacco che non faccio una diretta Instagram da Cozzo Spaziale. Qui la stiamo già facendo, sapete. So, ma queste cose nuove, adesso che c'è la diretta, no? Poi resta anche in traccia, la possono rivedere oppure no solo live? Sì, questa può essere condivisa e poi può essere automaticamente salvata e caricata. Passi il link, la pubblichiamo su www.blogspot.com insieme ai link e a tutti i link anche per riascoltare la puntata, vedere esatto, le foto. Dovrei stare qua una mezz'oretta a compilare tutto quello di cui ci hai parlato e ci stai parlando. Ma invece scusa, forse l'abbiamo detto ma ero distratto, ma Gender Bender invece quando è? Gender Bender inizia giovedì. Primi spettacoli, cioè, sono giovedì. Tutto questa settimana. E tu come fai a rigirarti? Noi siamo stati fortunati che di lunedì e che ce l'abbiamo portata qua adesso, sì, sennò esatto, poi era un disastro. Sì, e il dono dell'ubiquità ancora non ce l'ho, però ci stiamo lavorando, anche perché l'amore è trasversale. No, ma poi voglio dire, uno che sa fare, una come Gwendalina che sa fare ufficio stampa non ha alcun problema, cioè, i migliori uffici stampa gestiscono 50 mostre in una settimana. Sì, e poi scusami un attimo, la diretta io aspetto è che lei sempre apra, sintomo di ubiquità. Apra il suo ufficio stampa, è quello il tuo... Sto cercando di capire cosa fare nella vita. Ah, okay. No, ha già avuto la rivelazione di recente, esatto. Ma adesso non mettiamo le fretta, sì. E la ragazza no, infatti, sta crescendo bene. Io ho tutto il tempo necessario per assumerlo, no, come si dice, per fare un contratto, no, come funziona? Come funziona? Eh beh, no, lei non ha l'ufficio stampa, per cui perché mai dovrebbe... No, va bene, ma ritorniamo al tema principale, ritorniamo all'amore. Sì. E visto che c'è questo doppio filo che ci lega tutti, ma in particolare fa un doppio nodo vicino tra Gwendalina e Barbara, perché effettivamente anche la poetica di Barbara è incentrata nell'amore, ci sono similitudini rispetto ai vostri percorsi, tu da un lato più, diciamo, appunto di cura e di comunicazione e alla fine questo amore che è un po' il life motive, e dal punto di vista tuo invece come poetica e ricerca, cioè, c'è qualche incontro secondo voi? Beh, ci siamo incontrati nei corridoi, in qualche corridoio, in qualche bar, in qualche festa sicuramente, e poi da lì forse facciamo le cose con passione, no? Sì, le cose è il che grande ci piacciono, segreto. Quindi, è quello forse. Sì. Forse viene da dire, io sono più sentimentale a livello razionale. Però però sì, è una grande passione comunque per entrambe. Vorrei ritornare un attimo a Barbara, che io sono molto curiosa delle tecniche che vengono utilizzate dagli artisti, perché ovviamente nel contemporaneo c'è una un artista non è più legato ad un'unica tecnica, e quindi volevo sapere questo tema dell'amore, che hai detto che comunque è una poetica. Sto parlando con Barbara Baroncini, artista che ha la personale a Nelumbo fino al 30 novembre, che andremo tutti a vedere. E in che altro modo l'hai avvicinato questo tema? Con dei video, quindi ho fatto un lavoro video anche performativo, dove donavo a delle coppie un oggetto d'amore, e loro dovevano suonarlo con un bacio, un piccolo richiamo per allodole. E da qui, per ogni performance, traevo un brevissimo video con l'installazione, con la scultura, e a volte anche con il disegno, sempre, perché il disegno è il motivatore, è l'innesco di ogni nuovo lavoro, e questa volta anche con la pittura, in un certo senso. A fresco. Sì, esatto. Posso dire da parte di Nelumbo che abbiamo avuto il piacere di avere Barbara con noi e in Nelumbo, anche per questa sua qualità di usare diverse tecniche e continuare a sperimentare, perché l'idea quella di Nelumbo è quella di lavorare con artisti che lavorino nello spazio, non per forza in modo site specifico, come in questo caso ha fatto invece Barbara, ma che sia sempre un in progress, quindi l'attenzione alla ricerca, all'indagine, alla progressione di un lavoro, che è quello che appunto ci ha fatto scegliere di lavorare anche con Barbara. Doppio inganno, dice Oscar Moroni, non mi chiedete perché. È un film? No, è un libro di Lorenzo che salutiamo. Lui insegna latino, vero? Sì. Devo scrivergli. Devi scrivergli, sì. Hai bisogno di un latinista? Sì, ok, sì. Ho il suo numero se vuoi. Salutiamo Lorenzo Sarno e anche Oscar Moroni. Qua il tempo stringe, sì, cara mia, perché poi stiamo giungendo alla conclusione del 283esimo Cox. Coxo. Oh, io posso aggiungere un ultimo amore? Certo, no, infatti. No, ce n'è un altro, grande. Chiaro. Questo è un po' più in là nel tempo, perché si terrà dal 28 al 30 novembre al Teatro San Leonardo, ed è la prima edizione del Festival Cielo Corto. È un festival giovanissimo dedicato ai cortometraggi, che nasce dall'esperienza di una rassegna chiamata Cielo Corto da Chinodromo, e sono tutti ragazzi molto giovani che conosco, che mi hanno chiesto di lavorare con loro, e io ho accettato, e quindi nuovo amore. E allora tornerai a presentarceli, che il Chinodromo è un sacco che non torna qui a trovarci. I tuoi amici del Chinodromo. Nostri. I nostri amici del Chinodromo. Gli amici del Coxo torneranno, perché sapete, ragazze, non lo sapevate, no. Ve lo dico solo adesso, che ormai siamo anche registrate e documentate, ma chi sale sul Cox una volta, no, prima o poi ci ritorna. Non lo lascia mai più. Ok. Sì, sì, coxonaute d'adozione, ormai sentitevi proprio dei coxatori e delle coxatrici professioniste, e in qualsiasi occasione noi siamo qui con lo spazio aperto. Grazie. E dunque ringraziamo Barbara Baroncini e Gwendalina, sì, Piselli. Grazie di essere intervenute. A questa... Di essere state le super mega galattiche ospitesse del 283esimo Cox, Stefano. E ringraziamo Feda per avermi permesso di fare la regia per una volta. È stato bello, sai che quasi quasi... Quasi quasi potremmo rifarlo ogni tanto. Sì, quasi quasi. Non la prossima settimana. Cosa succede la prossima, sì, settimana, Feda? C'è la giornata nazionale dell'errorismo, l'Error Day. Cavoli. E come al solito, indovina io dove sono. Non ci sei? A Torino. Ragazze, voi non avete idea di... No, forse che... no, aspetta, fammi controllare il calendario. Di che cosa rara vi ha toccata la presenza di Pasquini in questo studio? Cioè, anzi, tornate per favore, che vorrei avercelo più spesso. No, il 28, no, ci sono il 28. No, non ci sono in novembre, no, ma il 28 ci sono. Che dite di questa calendarizzazione in diretta? Non è male. Beh, anche Pasquini un giorno imparerà ad avere il dono dell'ubiquità. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. fall to sleep, fall to sleep. It's you alone to keep, but this world will never stay still for you and me. Close your this world will never stay still.